9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, un buon mercoledì 24 di marzo e continuiamo ad occuparci di famiglia in qualche misura, in analogia, solo in qualche misura, perché non stiamo parlando propriamente della famiglia che funziona, né lo abbiamo fatto con Alessandro Milan prima, né tantomeno lo facciamo oggi in questa puntata della versione di Oscar, perché ci occupiamo oggi di una notizia. Partiamo da una notizia per approfondire un tema che sta diventando caratteristico, secondo me, nell'ambito delle separazioni e dei divorzi, e quindi stiamo parlando delle famiglie che non funzionano, cioè quelle che falliscono il loro progetto e che poi vedono i coniugi separarsi. E quando si separano, quando divorziano, naturalmente ci sono le decisioni connesse a ciò che prevede il nostro codice. E la notizia da cui siamo partiti ieri era in prima pagina sul Corriere della Sera di Milano, e ulteriormente riproponeva alla nostra attenzione un particolare, e questo particolare riguarda la figura dei padri separati poveri, cioè di coloro che finiscono sotto la soglia di povertà al punto tale da non potersi neanche più permettere un qualunque appartamento, di avere bisogno di particolari strutture che gli enti locali stanno iniziando a offrire loro. Perché? Perché dovendo pagare gli alimenti alla moglie, dovendo pagare soprattutto oltre agli alimenti alla moglie anche il mantenimento per i figli, di cui quasi sempre l'affidamento è dato poi dal giudice alla ex moglie, i padri finiscono per non avere, non dico più niente, ma quasi per sé, al punto tale da non potersi più permettere un affitto. Questa è la notizia da cui partiamo, tentiamo di approfondire poi questa figura del padre separato povero in quanto soggetto nei cui confronti l'ordinamento e la giurisprudenza ha effettuato una specie di dovere, quello di provvedere a un riequilibrio storico di millenni di supremazia esercitata impropriamente, questo è il mio giudizio, dall'uomo sulla donna, che però improvvisamente da un po' di anni a questa parte, dal cambio del diritto di famiglia e dall'introduzione naturalmente del divorzio civile, diventano un onere da riequilibrare storicamente, mettendolo a carico del portafoglio della generazione attuale dei mariti e dei padri. La percentuale di affidamento dei figli alle signore è quella che è nota, straordinariamente elevata rispetto all'affidamento condiviso. La casa va alla signora, e questo è ben noto a chiunque ci passi. Ieri è uscita una sentenza della Cassazione che dice che la casa va alla madre anche quando i figli sono della maggiore età, cioè ci va comunque perché è del genere femminile. E io capisco la necessità di riequilibrare i millenni di storia sbagliata, però rimane il punto, rimane la domanda, l'interrogativo, se la giurisprudenza non ci obblighi a immaginare che ci sia bisogno in qualche maniera di un correttivo, perché se la parità dei generi, e più volte me ne sono occupato in questa trasmissione, deve vedere le donne restituite alla giusta attenzione e al giusto posto rispetto alle tante improprie discriminazioni che ancora subiscono, è anche vero che quando si tratta poi di separarsi dei figli e di vedere i figli utilizzati come strumento esclusivamente per un ricatto economico, e allora c'è qualcosa che non funziona. Non desidererei mai che fosse una trasmissione in cui c'è una voce misogina che parla, perché bisogna parlarne apertamente, esclusivamente ponendoci il problema. Allora, cominciamo nella presentazione con i nostri ospiti esattamente dalla notizia da cui siamo partiti, cioè quella della struttura per i padri separati poveri a Milano. Abbiamo con noi Massimo Pagani, assessore alle politiche sociali della provincia di Milano. Buongiorno assessore. Buongiorno dottor Giannini e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, di che cosa si tratta in realtà e qual è l'incidenza? È davvero un fenomeno che ha una che entra nella soglia di attenzione, per così dire, rispetto alle tante figure diffuse delle nuove povertà delle nostre città? Beh, direi proprio di sì, perché i numeri, che seppur approssimativi, che ci sono stati dati parlano di un fenomeno ormai emergenziale, un fenomeno veramente importante, che riguarda un numero considerevole dei rapporti e dei matrimoni che si sfasciano, che giungono a termine. Devo dire che oltre al fenomeno ovviamente numericamente importante, si parla di quasi un 52% di separazioni nel 2008 a Milano rispetto ai matrimoni contratti, però lascia ovviamente chiaramente l'amaro in bocca a tutto quello che poi ci sta dietro, e che lei ha ben descritto prima, il problema relazionale con i figli, i problemi economici che ovviamente riguardano i padri, padri che vivono in condizioni difficili, vanno a mangiare alla mensa dei poveri, dormono in macchina. Abbiamo veramente saputo e censito con le varie associazioni con le quali stiamo lavorando, tra cui i padri separati cristiani e i padri separati lombardi del dottor Fumagalli, devo dire abbiamo censito delle situazioni veramente drammatiche al limite, e da qui abbiamo pensato francamente di sollecitare un po' il territorio per cercare di trovare delle risposte economiche, abitative, educative e di relazione, perché dobbiamo mettere in campo secondo me una filiera di azioni, noi enti locali, con le associazioni del terzo settore, per dare... Assessore, gli devo solo una preghiera, hai il viva voce, se hai il viva voce la devo pregare di levarlo perché fa un po' di eco. No, ho gli auricolari. Ah, ecco, ecco, va bene. Levare, levare anche quelli, questa è la richiesta, grazie, prego. Sente? Sì, meglio. Ecco, dicevo che il vero problema sono tutte le condizioni, oltre a quella economica, che si porta dietro il distacco del padre dal nucleo familiare, soprattutto sotto il piano dell'educazione del rapporto con i figli. Bene, allora questa è l'iniziativa da cui siamo partiti. Allora, e ora entriamo nel delicata arena del confronto delle opinioni. E in questo caso bisogna usare non solo il termine opinione, bisogna usare la parola secondo me più propria, perché l'ordinamento, il processo, la decisione del giudice deve tutelare interessi, e qua si tratta di contemperare l'interesse di figure diverse rispetto al fallimento di un progetto matrimoniale, quella ovviamente della moglie, della ex moglie, quella del marito ex marito, quella della prole, e contemperarli in una soluzione equilibrata sia rispetto al tenore di vita precedente, sia rispetto ai flussi di reddito attuali e attualizzati per il futuro dei rispettivi soggetti, sia rispetto alla potenzialità futura di formazione ovviamente del capitale umano e non solo, ma relazionale dei figli. Ecco, di fronte a tutto questo, l'unilateralità della decisione maggioritaria della giurisprudenza che mette sulle spalle del coniuge maschile il più di tutto questo, è così giusta, oltre a essere storicamente comprensibile, ma continua a essere giustificata? Ecco, lo chiediamo ai nostri altri tre ospiti che vado a presentarvi. Abbiamo innanzitutto Domenico Fumagalli, il presidente di una delle associazioni appena richiamato dall'assessore Pagani, e cioè il presidente dell'associazione Papà Separati Onlus Lombardia. Buongiorno Fumagalli. Buongiorno Giannino, grazie per averci contattato. Si figuri. E poi abbiamo due grandi avvocati matrimonialisti, dalle cui dichiarazioni, non voglio sbagliarmi, né attribuirò loro opinioni prima di averle sentite, ma mi parso di ravvisare che abbiano opinioni diverse, cioè chi più favorevole alla tesi che sto modestamente offrendo alla riflessione pubblica, non perché ne sia sicuro, ma per vedere di discuterne, e chi invece è assolutamente contrario, dicendo le signore e le donne vanno tutelate e esiste un criterio di giustizia che viene a essere sintetizzato e concretizzato nelle decisioni della giurisprudenza prevalente in questi anni. E allora vi presento innanzitutto l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, buongiorno. E l'avvocato Maria Pia Sabatini, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, avvocato De Pace, naturalmente io posso sbagliare, ma ho trovato delle dichiarazioni nelle quali mi pare di capire che lei non si tiri indietro nel dire a chi obietta che vi sia una sproporzione, una specie di pregiudizio ostile al genere maschile nella giurisprudenza che da anni si accumula unilateralmente favorevole alle donne, sia per l'affidamento della prole, sia per lo stabilire i flussi di reddito da garantire alla ex moglie per il mantenimento del reddito, che per la prole per gli anni successivi. E lei mi pare di capire che sostenga che è giusto così, o sbaglio? No, allora io non ho mai detto che è giusto così. Io dico intanto che l'impostazione che è stata data anche da lei oggi è un'impostazione sbagliata, perché non si tratta di contemperare gli interessi del marito rispetto a quelli della moglie. Nella nostra legge è centrale, indiscutibile, prevalente l'interesse del minore. Allora, non si deve riequilibrare questa, quella che lei chiama storia sbagliata nei secoli per cui gli uomini hanno avuto supremazia sulle donne. È vero che gli uomini hanno sempre avuto supremazia sulle donne, ma non c'è assolutamente da parte della nostra legge, basta leggerla, neanche da parte dei provvedimenti dei nostri giudici, basta leggerlo, questo principio di riequilibrio. L'interesse del minore è diventato prevalente a qualsiasi interesse. Il correttivo che semmai si deve fare è un correttivo a monte, il correttivo che devono fare le due persone quando decidono di sposarsi, di programmare un matrimonio, di programmare una famiglia e anche di programmare una separazione, perché non è necessario andare dal giudice, le persone responsabili sono in grado di decidere da sole. La separazione che cos'è? Di fatto è una fotografia di quello che è stato il matrimonio. Se durante il matrimonio è la madre che si è sempre occupata del figlio, quindi per il figlio la madre è il genitore di riferimento, il giudice deciderà che sarà la madre, quando i coniugi non sono capaci di mettersi d'accordo da soli, deciderà che è la madre a continuare a occuparsi del figlio, non perché la madre abbia più diritti del padre, ma perché il figlio ha diritto di avere il genitore di riferimento. Io avvocato De Pace, lei se la sente di mettere la mano sul fuoco che quello che avviene nella prevalente decisione dei giudici rispecchia e fotografa unicamente il fatto che la prole ha diritto a rimanere con la figura che più praticava prima, o secondo lei ha ragione chi dice che la decisione in merito all'affidamento della potestà sulla prole sconta un pregiudizio favorevole alla figura materna? Allora, io la mano sul fuoco non la metto per nessuno nella vita, neanche su me stessa, neanche per me stessa ce la metto, però le dico che il principio di base di tutti i giudici, di tutte le motivazioni che io leggo sui provvedimenti, è quello che il bambino ha diritto di restare col genitore col quale ha un rapporto più quotidiano. Allora, di padri non c'è il 50% e tantomeno il 90% di padri che da quando nasce il bambino se ne occupano, si alzano la notte, lo portano all'asilo. Ci sono tantissimi padri che lo fanno. Infatti, negli ultimi anni gli affidamenti ai padri sono aumentati notevolmente. È vero che ci sono delle madri pessime, drammatiche, alle quali vengono tolti i figli a favore dei padri quando gli avvocati, i consulenti di parte riescono a dimostrare che quella madre è dannosa per il figlio e che il padre, è, anche se non meraviglioso padre, è il minore dei madri, è il minore dei mali. Un sacco di volte alle madri viene dato il figlio perché il minore dei mali è darlo alla madre perché entrambi i genitori sono pessimi. D'altra parte bisogna pensare che i genitori sono quelli che si sono trovati tra loro, si sono decisi. Se poi il padre è uscire di casa è quasi sempre perché la madre non lavora ed è stata prima della separazione col figlio. Poi io trovo che sia sbagliato parlare sempre di ricatto, perché sappia che a ogni ricatto corrisponde anche una vendetta. Ci sono un conto è la dinamica delle vendette successivi, altro conto il ricatto che viene fotografato nella decisione del giudice a fronte di un corrispettivo monetario che talvolta, per chi non è ricchissimo, chi non fa libero professionista, non fa l'imprenditore, significa l'erosione di un terzo e oltre un terzo dei redditi disponibili ogni mese. E a quel punto, una volta che ci sono i 500-600 euro per questo, i tot per il figlio, eccetera eccetera, si può più pagare l'affitto neanche in proprio. Queste sono le situazioni di cui ci stiamo occupando oggi. Lei dice, mi pare di capire, peccato per lui se si trova in queste condizioni. Appunto, non hanno programmato la vita in precedenza. Se c'è uno stipendio solo in casa e poi ci si separa, è un dramma. Allora bisogna pensarci prima. Se la donna non lavora, ha l'assegno di mantenimento, non ce l'ha sempre. se la donna resta in casa ha un assegno dal marito. Mi scusi avvocato, ma com'è possibile che un giudice non prenda in considerazione l'idea che con l'effetto delle decisioni che assume nei confronti, in questo caso stiamo parlando dell'ex coniuge di sesso maschile, ma diciamo in generale, se prende delle decisioni esclusivamente correlate alla fotografia dei redditi del matrimonio che era in essere precedentemente al fatto che poi si vada al giudice e non tiene conto del fatto che le decisioni che assume portano il titolare di quell'unica fonte di reddito, lei dice bisognava pensarci prima, d'accordo, ma al momento della decisione, se resta quello e al momento della separazione per effetto del giudice al signore viene eroso praticamente tutto quello che ha o quasi, insomma va sotto la soglia di povertà, questa è una decisione ragionevole? Io non credo che i giudici prendano delle decisioni a questo punto, perché io non vedo tutte queste erosioni di redditi, anzi, le assicuro, ma è inutile, questa è una tesi che viene portata avanti, non so in quale modo, bisogna conoscerle le storie, perché non ci sono... Ma se siamo al punto che gli enti locali devono dare i soldi del contribuente per creare gli alloggi pubblici per i padri divorziati poveri, vorrà dire questo che... Non lo so, ma chissà se sono padri divorziati, chissà com'è la storia personale, chissà come lavoravano allora, prima... Lei dice legittimo dubbio, io intanto vedo che i giudici non sono così matti, se posso dire, insomma tengono conto... Io le giuro su tutto quello che lei vuole, che io vedo molti più padri che non pagano gli assegni che non madri che erodono in modo disperato gli assegni del coniuge. Ma no, le madri le incassano di solito gli assegni, però adesso no, adesso questa è una battuta... Io ne vedo, se sapesse quanti precetti facciamo... Questo è vero, questo è verissimo e non bisogna confondere, ci sono anche moltissimi che non è vero che non pagano perché non possono, ma non pagano perché glielo deve pagare, questo è il punto, questo è, ha perfettamente ragione, questo è sbagliato, ma qui stiamo parlando della decisione precedente, quella del giudice. Avvocato Sabatini, lei si sente dire la stessa cosa? Dunque, intanto saluto la collega e devo dire che condivido soltanto in parte la sua opinione. Ma io faccio il provocatore, no? Oggi non ho opinioni. Vorrei dire, l'opinione della collega, vorrei dire che bisogna considerare un punto fondamentale, cioè che c'è stata un'evoluzione nei tempi che poi ha dato luogo a questa famosa legge dell'affido condiviso, vista come una panacea di tutti i mali, come questo famoso correttivo di cui si stava parlando prima, ma che effettivamente ha cambiato poco, perché prima c'era un affidamento esclusivo, ora c'è un affidamento condiviso, ma il collocamento dei minori nella maggior parte dei casi, e parliamo sempre dell'80% più o meno, è presso la mamma. Allora, il discorso è che il principio proprio della bigenitorialità verso il quale questa legge ci doveva portare, verso l'Europa, laddove è già applicato da anni, parlo di decenni, e non è stato effettivamente seguito, perché il principio da tutelare è quello, il diritto da tutelare è quello del minore a mantenere un costante rapporto continuativo, dice la legge, con entrambe le famiglie di origine nel momento in cui i due genitori si separano. Se mamma e papà non possono più stare bene insieme, continuano comunque a essere genitori, quindi con i loro doveri, i loro diritti naturalmente, ma i bambini sono al centro di questa legge, sono al centro di tutti i nostri pensieri, di tutti gli operatori del diritto, e invece sembra che purtroppo la mamma sia vista sempre come il genitore più idoneo per avere il collocamento della prole. Questo comporta delle conseguenze molto gravi. Ma qui allora vedo che però ci sono due matrimonialisti che la pensano in maniera un po' diversa. Adesso io devo interromperle per la pubblicità, non voglio stimolare un rodeo tra voi, però io conosco, qua ci sono dei dati, voglio dire, i dati dicono che addirittura potrebbero esserci quasi 50.000, questa è l'associazione matrimonialisti italiani che averlo calcolato, che solo a Milano, tra città e provincia, di uomini che vivono, cioè di uomini nel senso dei ex mariti, quindi, che vivono questo tipo di difficoltà, cioè nel mettere insieme i soldi per il mutuo da continuare a coprire, quello della vecchia casa affidata alla ex moglie, l'assegno da versare, l'affitto da pagare per la nuova abitazione e il mantenimento per la prole, e 50.000 soggetti solo tra Milano e provincia. Stiamo parlando qua di numeri molto importanti. a tra poco per vedere se questa divergenza di opinioni può trovare e indicare alcune soluzioni anche di innovazione legislativa. La legge di cui si sta parlando, lo dico a chi è in ascolto e ne sono molto, è quella dell'affidamento condiviso, entrata nel nostro ordinamento in vigore nel 2006. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di questa figura, padri divorziati, in quanto divorziati, poveri, finiti sotto la soglia di povertà. E millantato credito? Se sono gente che non vuole pagare? Bisogna ragionare che il giudice su questo, anche con la legge sul fido condiviso, è un giudice illuminato che non parte da ciò che nella legge non c'è. Ha fatto bene l'avvocato Bernardini De Pace a sottolinearlo, ci mancherebbe, ma che potrebbe essere un riflesso condizionato, quello del pregiudizio favorevole per riequilibrare l'impropria supremazia maschile a favore del coniuge di sesso femminile, sia per l'affidamento dei denari sia per stabilire la soglia della cifra di mantenimento, magari senza andare a guardare se poi la signora nella casa ex maritale ha un nuovo convivente nel cui flusso di reddito è integrato, perché questo lamentano molti mariti che pagano al momento di dire: ma io perché devo pagare se lei poi ha una nuova situazione di reddito che non viene fotografata, anche se non è la sua ma è quella del convivente nuovo nella sentenza del giudice. Dice tutte domande che io preferirei, nell'aprire il microfono ai vostri interventi, fossero anche però equilibrate da un tono di rispetto per tutti, perché non bisogna generalizzare, perché il fallimento di un progetto famiglia e le condizioni di separazione toccano drammaticamente poi la vita di centinaia di migliaia di persone. Ci stiamo solo interrogando se questa figura del padre povero divorziato non rispecchi però anche una contraddizione dei nostri tempi e se non si debba in qualche misura non dico tanto, ma quantomeno consentire poi lo sgravio fiscale a chi poi questi soldi li deve dare, cosa che molti di voi mi fanno notare con i messaggi che arrivano non è consentita nella giusta misura, cioè con qualche provvedimento di incentivo in più. Iniziamo a sentire alcuni di voi che esperienza hanno e come la pensano. Sentiamo Luca dalla provincia di Treviso. Io ho solo telefonate in arrivo di uomini, cosa che mi preoccupa, forse qualche donna sarebbe il caso anche che facesse sentire la sua voce, e lo dico preventivamente perché non voglio fare la parte del misogino, perché lo sapete che qua abbiamo fatto e continueremo a fare molte trasmissioni dal punto di vista delle signore e dei posti e delle responsabilità che vengono loro impropriamente negate. Luca dalla provincia di Treviso, prego Luca. Sì, buongiorno. Allora, io sono divorziato e sono proprietario di un appartamento dove vive la mia ex moglie con la mia figlia. Diciamo che io sono uno di padri fortunati separati, perché sono stato riaccolto in casa dai miei genitori, altrimenti mi sarei trovato nella condizione di padre povero anch'io, in quanto sono proprietario di un appartamento di cui ho tutte le spese, lei con praticamente usufruttuaria dell'appartamento, quindi solo le spese vive, ho un assegno di mantenimento sostanzioso da pagare ogni mese, ho dovuto intraprendere una battaglia legale incredibile per non farle ottenere l'assegno divorzile che pretendeva, nonostante lavori. Quindi tante volte c'è anche una venalità delle donne veramente indecente nei confronti degli ex mariti, che poi dimostra quanto poi veramente ci tenevano a quella persona. Vabbè, se il matrimonio fallisce si cambiano opinioni, punti di vista e anche reazioni, Luca. Però Luca dice qui il problema io l'ho visto, l'ho toccato con mano. Sentiamo Federico da Milano, prego Federico. Buongiorno, ho 53 anni. Pago assegni di mantenimento per i miei figli da circa 20 anni. Per me, io sono stato sposato, da questo matrimonio sono nati due figli, è stato stabilito un assegno che ritenevo giusto, ecco, anche perché l'uomo deve fare la sua parte dal punto di vista economico. Ci mancherebbe, certo. Dopo questa esperienza ho avuto una relazione con una donna da cui è nato un figlio. A un certo punto, nato questo figlio, questa donna mi ha chiesto di non vedere i miei primi due figli, è finita la storia. Quando siamo andati a definire i termini della separazione, per il figlio più piccolo è stato stabilito un assegno di mantenimento pari a più del doppio di quanto stabilito agli altri figli. Nella sostanza, con questo io andavo a pagare mensilmente più di due terzi del mio stipendio. Allora, quello che mi lascia perplesso è che non esistano dei parametri, che non si considerino gli assegni che vengono magari, come nel mio caso. Federico, perché è stato chiarissimo, è esattamente la questione, secondo me, che forse all'attenzione del giudice con qualche correttivo bisognerebbe obbligare a tenere in considerazione, perché altrimenti si determinano delle condizioni poi insostenibili. Potrà essere giusto rispetto alla fotografia di reddito precedente, dice l'avvocato Brenedi De Pace, dovevate pensarci prima, però se poi si crea una situazione di insostenibilità, perché se solo i proventi da garantire rispetto a un reddito disponibile diventano più di 2/3 per sostenere il matrimonio precedente, come si può campare? Allora, ancora Franco da La Spezia, prego Franco. Sì, eccomi, buongiorno Giannino. Dunque, parto dicendo che le situazioni sicuramente poi nei numeri generali sono, si appiattiscono, diventano tutte uguali, però come l'unica cosa che mi sembra che abbia detto giustamente l'avvocato De Pace, bisogna conoscere le situazioni, certo. Per il resto mi sembra che abbia detto, non dico delle castronerie, ma delle invenzioni. Però se, rispettiamola, dica perché lei dissente più che qualificato. Dissento fortemente su questo, che intanto le storie matrimoniali incominciano in un modo e finiscono in un altro. Vabbè, sul piano degli questo... affetti e anche materiali, economici. Intanto la legislazione in questo periodo è mutata, ma comunque fino a pochissimo tempo fa le precedenze e ancora adesso adesso c'è l'affidamento condiviso, ma alle, lei dice... alle donne, anche sul piano economico. E cosa succede? Stante il diritto come è configurato in questo momento, e lo dico per esperienza personale, il giudice quando vede situazioni di possibile incompatibilità non se ne frega niente di andare a verificare la situazione. La domanda che mi è stata fatta, come è stata fatta a tutti, può essere brevissima per capire solamente se c'è incompatibilità, dopodiché si va automaticamente alle separazioni, ai divorzi, non si va niente di verifica delle situazioni reali, e la giustizia se ne dovrebbe occupare perché c'è un riscontro sociale, e nello stesso tempo succede che poi queste cose le curano gli avvocati. Io non ho fatto nessuna udienza me presente per potermi esprimere, e in questo senso quindi si è persa la situazione personale, si sono perse le situazioni economiche, il padre danneggiato economicamente è vero, e lo vedo statisticamente in un numero molto molto esteso, maggioritario, ma soprattutto il danneggiato più grande è il figlio in genere, che è già danneggiato mentre partono le situazioni, ma alla fine si ritrova ulteriormente danneggiato. Grazie, grazie. No, la devo interrompere Franco, perché ha avuto un tempo congruo per sostenere i suoi dissensi, e a questo punto torno a dare la parola all'avvocato Brenedi De Pace, perché come vede e come immaginavo, tra il pubblico, devo dire la verità, a telefonare sono solo padri e rappresentanti della categoria di ex mariti, e questo naturalmente non è un campione statistico, però diciamo immaginavo che i suoi argomenti in qualche maniera non fossero condivisi. La sua replica è che invece il giudice tiene conto davvero della situazione? Allora, io ho il 70% dei miei clienti in questo momento che sono maschi, dopo avere per oltre 15 anni difeso il 90% di donne. È vero che oggi la venalità delle donne... Posso chiedere come è avvenuto questo turnaround della sua clientela? Come se lo spiega? Avvenuto? Di fatto le persone non tengono conto che la giustizia non è un'entità virtuale. La giustizia è fatta dal processo. Nel processo ci sono tante variabili, le parti, i giudici e gli avvocati. C'è una verità processuale e una verità reale. Quindi traduco, avvocato, siccome lei è stata per decenni capace di portare cifre pazzesche alle sue clienti donne, gli uomini hanno detto piuttosto che perdere e pagarle vado dall'avvocato per... La provocazione può essere che sia così. Fatto sta che io che svolgo cause in tutta Italia, purtroppo vedo tantissime volte che gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia non hanno la competenza, non studiano, non sono in grado di proporre ai giudici la peculiarità della situazione, e siccome non esistono degli schemi ma esistono dei parametri dati dalla legge e dalla giurisprudenza, non è che il giudice può andare a fondo di ogni causa. cosa se ogni argomento non viene portato dagli avvocati delle parti. Perfetto, l'avvocato De Pace dice: guardate cari signori che forse avevate da scegliere meglio i vostri avvocati. Questo è sicuramente un elemento, secondo me, punto a favore dell'avvocato De Pace, perché va bene che il giudice, ma il giudice bisogna che qualcuno gli prospetti gli argomenti, le situazioni, le attualizzazioni per gli anni a venire del flusso di reddito che l'ex coniuge di senso maschile si trova attualmente ad avere rispetto a ciò che potrebbe verificarsi nel fissare delle cifre congrue per il mantenimento dell'ex coniuge e per i figli. Questo è sicuramente anche un argomento. Che dice il presidente dell'associazione Papà Separati Lombardia, Domenico Fumagalli? Lo abbiamo tenuto un po' di fondo fino a questo momento. Sì, volevo dividere un po' il discorso per argomenti. Lei ha introdotto un fatto culturale e quindi non entriamo nel fatto legale, che lasciamo dopo. Il fatto culturale è legato appunto all'esclusione della figura paterna dalla famiglia, è un fatto che parte da molto lontano, parte appunto dagli Stati Uniti, dove hanno un'esperienza sul divorzio che è dall'inizio del 1900 e quindi hanno dati statistici e hanno fatto analisi molto più approfondite di quelle che abbiamo noi. Il discorso è che, per esempio, c'è il movimento femminista, diciamo così, la McElroy, che forse lei ha conosciuto, la Badinter, già da tempo hanno preso le distanze da questo sistema di esclusione della famiglia, della figura paterna dall'educazione dei figli. La Badinter ha scritto quel famoso libro Strada sbagliata, la McElroy è schierata fortemente a sostegno del rientro della figura paterna. Ma nella cultura dell'Italia di oggi, lei dice, c'è questa discriminazione ancora? Fortissima, assolutamente, fortissima, poi entriamo nel discorso legale. Allora, nel discorso legale ci entriamo quindi dopo. Un brevissimo flash, ha chiamato finalmente una signora, perché sennò mi sentivo in colpa, ma Maria Grazia dalla provincia di Milano. Prego Maria Grazia, lei che dice? Buongiorno, senta, io non sono, la ringrazio intanto per avermi si figura parlare. Allora, io non sono né separata né divorziata, quindi voglio dire, la cosa che volevo dire è che la fotografia della dottoressa Di Pace rispecchia la realtà. Cioè, io quello che sento in giro sono sicuramente più padri che non pagano quello che gli spetta. Questo è quello che abbiamo. Questa cosa mi fa ridere, mi scusi, ma mi viene da sorridere. Questa cosa che si dice che i padri sono diventati poveri perché devono mantenere, non lo so. Cioè, voglio dire, mi sembra una cosa veramente boh. Va bene Maria Grazia, io non metto in discussione che ci sia un'elevata percentuale di ex coniugi che tendono a sottrarsi. È capitato anche a molte mie amiche di trovarsi in condizioni simili. La questione è se tendono a sottrarsi semplicemente che si vendicano di rude, come dicono a Roma, oppure se tendono a non pagare perché davvero sono finiti in una soglia in cui, sotto una soglia in cui non se lo possono più permettere. Questo è ciò di cui ci occupiamo oggi. Eccoci tornati in studio. C'è chi mi fa notare gli sms che anche oggi, come ieri, attacco i giudici. Ma io non sto attaccando i giudici, mi sto ponendo un problema intorno all'emergere di questo profilo del padre divorziato soi-disant povero, ma dicono le cifre che il fenomeno esiste, dicono gli enti locali che devono provvedere iniziative come quella da cui siamo partiti a Milano. L'avvocato Benedetti Di Pace dice vediamole davvero questa situazione, bisogna vedere caso per caso, in ogni caso pensarci prima del matrimonio e prima della separazione, provvedersi un buon avvocato per prospettare al giudice la situazione, il giudice tiene conto della centralità degli interessi del minore. Molti di voi sostengono, ma insomma non ci risulta che sia proprio così. Sentiamo le ultime telefonate e poi torniamo a un ultimo giro di commenti. Silvana D'Alessandro, prego Silvana. Pronto, buongiorno. No, io volevo solo dare così la mia opinione anche per quello che ho vissuto. Io capisco e a volte mi chiedono come fanno certi papà a poter dare delle cifre così grosse con gli stipendi che ci sono oggi in Italia. Sì. Io lo capisco. La mia parte invece è l'inverso. Il padre delle mie figlie, adesso loro sono già due ragazze, però all'epoca e anche adesso è di famiglia molto molto benestante anche lui, e dunque quando ci siamo separati mi ha dato quello che allora era 1 milione, adesso poi lui ha detto che aveva un po' di problemi, risultano essere 400 euro che per due ragazze, insomma, una di 15 e una di 20 anni, voglio dire, non è che siano, studiano tutte e due. E la cosa più brutta è che lui fa una vita proprio da nababbo, Io non faccio niente per rispetto alle mie figlie, perché non voglio andare in tribunale, sono già grandi. Non credo io che sia una cosa di soldi quando uno può. Deve essere una cosa di coscienza. Io per me non ho chiesto niente perché non ne ho bisogno, poi sono una donna sana, fortunatamente posso andare a lavorare, non è che devo dipendere da il mio ex marito, non lo voglio neanche. Però deve essere una cosa che un padre deve pensare: posso, lo faccio per le mie figlie. Non devono partire dal fatto che lo fanno, che la moglie se li va a spendere. Perché questi uomini che magari prendono 1.200-1.300 euro e devono dare 600-700 euro per un figlio o due, è un'immensità. E dunque dovrebbe essere sì il giudice a stabilire anche base una busta paga, perché non si può, ma anche chi può dire: vabbè, io posso, voglio che i miei figli siano bene, non devono pensare. Lo so, Silvana, però lei sta facendo un appello alle coscienze di chi ha buon reddito. Io gli appelli alle coscienze di solito preferisco farli alla mia, perché dire che in base alla coscienza gli altri devono fare più o diversamente da ciò che è stato deciso che comunque siano tenuti a fare, gli appelli alle coscienze, io penso che innanzitutto è la mia coscienza quella che può fare di più di quello a cui sono tenuto, agli altri non glielo posso chiedere, a meno che non siano tenuti a farlo da una decisione del giudice. Comunque capisco la posizione anche di Silvana. Avvocato Sabatini, siamo sicuri che non si debba in qualche maniera pensare alla prospettazione obbligatoria di una situazione del reddito dell'ex marito prima della decisione del giudice, che non si debba fare un conto attuariale di che cosa significa per lui sobbarcarsi agli effetti delle decisioni che il giudice assume all'atto della separazione e del divorzio? Ma, vede, questa valutazione andrebbe fatta sicuramente a monte prima di prendere qualsiasi decisione, ma con un dialogo che deve essere soprattutto tra i legali che poi vengono nominati, perché se non c'è dialogo tra i legali immaginiamo che cosa possa accadere tra due persone che stanno già separando. Per cui valutare effettivamente che non ci sono più economie di scala nel momento in cui si esce da casa, no? Quindi reperire un nuovo alloggio con ulteriori spese, andare a considerare le distanze, perché spesso queste persone trovano poi alloggi in periferia estrema, fuori delle città, quello che si possono poi permettere, ma quando sono fortunati, altrimenti, come è stato detto, possono andare a dormire dai genitori, e lì la situazione può essere fortunata dai punti di vista, perché spesso non possono poi frequentare i figli, non possono farli prenotare presso di sé, e lì è un grave problema, perché un bambino che ha visto sempre con sé un papà all'improvviso lo vede centellinato per poche ore infrasettimanali, per un weekend alternato ogni 15 giorni. Questo non significa mantenere un rapporto continuativo con il proprio genitore, quello che dice poi la legge, no? Effettivamente. Quindi è un grave problema che va considerato. La legge dice anche altre cose che però non vengono effettivamente applicate in tutta Italia. Per esempio? Lei dice? Allora, dice per esempio che l'assegnazione non segue così semplicemente il collocamento dei figli. Dice che va valutato il titolo di proprietà della casa. Quindi rispetto a prima c'è questo cambiamento. Eppure la casa viene sempre, quasi sempre, assegnata al genitore collocatario della prole, e questo sicuramente anche in virtù del principio che il bambino deve conservare l'ambiente in cui è nato e vissuto e cresciuto, e va bene, però c'è anche da considerare questo fatto, e c'è da considerare anche il mantenimento diretto, e cioè un'applicazione molto parziale di questa innovazione, di questa nuova legge, che prevederebbe il mantenimento della prole, in questo caso per esempio il bambino che viene frequentato con una permanenza molto assidua ha un mantenimento diretto da parte del genitore in proporzione proprio ai giorni in cui lo tiene con sé. E invece abbiamo sempre molto spesso una disposizione di contributo al mantenimento. Io direi che sembra quasi un mantenimento esclusivo in certi casi, no? Rimane questo mantenimento a capo del genitore nonostante ci sia una frequentazione della prole. Allora, dove stanno le innovazioni? Dov'è la vera applicazione della legge? Bisognerebbe andare a considerare che in vari tribunali d'Italia viene applicata in un certo modo, in altri un po' meno e in modo diverso. Ora c'è una raffica di nuovi sms di esperienze personali. C'è chi dice che il giudice al momento del divorzio gli ha detto che era grande e grosso, quindi poteva fare due lavori per dare i soldi alla ex, cosa che gli è sembrata assurdo a chi ci manda l'sms, che un giudice si possa esprimere con un simile linguaggio. C'è chi lamenta che è vero che bisogna prospettare con un buon avvocato la stazione al giudice, però gli avvocati costano tantissimo, e naturalmente devo dire all'avvocato Benedetti De Pace che evidentemente è molto diffuso l'opinione che lei si faccia pagare tantissimo, perché i messaggi che arrivano dicono questo. Dal punto di vista dell'avvocato De Pace, invece, quali possibili innovazioni rispetto alle tecniche di assunzione delle decisioni del giudice la prassi di questi anni può indurre ad assumere? Premetto che nella vita tutto costa e dipende dalla qualità di quello che si vuole. Nessun acquistare. Pasto è gratis, diceva i miei filosofi liberisti di riferimento. Ecco, dica. Appunto. Allora, secondo me innovazioni non ci devono essere. Ci vuole sicuramente una coscienza preventiva. Parlavamo di coscienza prima. Le persone spesso si sposano, vivono il matrimonio e si separano da incoscienti, non coscienti di quello che stanno facendo. Se poi dopo non sono capaci di mettere a posto le loro cose, devono andare in mano agli avvocati, che costano, ai giudici, che spesso non sono consapevoli della loro vita, anche perché gli avvocati non sono stati capaci di illustrarla nel modo giusto, e quindi spesso le decisioni consistono in uno sparare nel mucchio. Abbiamo una legge del 5406, la legge 54 del 2006, che è la legge sull'affido condiviso, sulla quale io sono stata contrarissima, non per non favorire i maschi, ma perché un bambino non si può dividere a metà come molti vorrebbero, che prevede una serie di parametri insindacabili per decidere l'assegno dei figli, indipendentemente dalla... E per questo le chiedo però se è il caso di cambiarla, lei dice no, di no. Perché no? Perché questa legge dà questi parametri che corrispondono e sono le esigenze obiettive, sì, del figlio, esatto, il tenore di vita precedente della precedente, famiglia. Capisci? Precedente, quello che sta... Ma certo, non deve essere uguale, identico, è analogo, è in quella zona. E però qua la fermo, perché allora vuol dire che il problema resta aperto, perché la fotografia del precedente, quando le risorse restano le stesse di un coniuge ma le cose da coprire si moltiplicano per due nella separazione dei nuclei, nella nuova casa provvedere, secondo me è un criterio aperto. La mia opinione è che lì bisogna invece intervenire, e non perché per questione di pregiudizio di genere o perché sono un maschio o perché no, ma perché esiste una questione di numerica, matematica di flussi di reddito, e quindi secondo me è la fotografia del precedente con le stesse risorse che non si può garantire, neanche nell'interesse della prole si può garantire. Quindi la mia opinione è che esattamente su questo punto, fine della trasmissione, tutti i punti di vista che abbiamo sentito intorno a questa nuova emergenza sociale, per cui dalla Liguria alla Lombardia a Roma i soldi dei contribuenti vengono spesi anche per dare alloggi e tetti ai padri separati, divorziati, poveri, ci indicano che c'è un punto su cui bisogna introdurre un nuovo criterio all'attenzione del giudice quando la gente incosciente si separa e si divorzia. Bene, allora l'appuntamento a domani, linea a Giornale Radio.